Palazzo Malagola, Ravenna, un'esposizione come secondo movimento dedicata a Demetrio Stratos. Siamo con il co-curatore Enrico Pitozzi, che innanzitutto saluto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori. Un secondo movimento, quindi un percorso che dà una continuità. Perché il bisogno di portare avanti questi contenuti? La necessità è proprio quella di riuscire a mettere a disposizione degli spettatori, delle spettatrici, l'intero archivio di Demetrio Stratos, che abbiamo avuto l'onore di gestire a partire dal 2001 grazie all'incontro fecondo con Daniela Ronconi Demetriou, che è la moglie di Demetrio Stratos, e il comune di Ravenna, che ha ricevuto l'archivio Demetrio Stratos e che ha permesso a noi di curarlo. Il primo movimento, che è stato realizzato lo scorso anno, metteva in esposizione una serie di elementi, di documenti, di materiali sonori che riguardavano sostanzialmente la relazione di lungo corso tra Demetrio Stratos e John Cage. Quest'anno invece abbiamo pensato che tutta l'altra parte di materiali che era rimasta fuori lo scorso anno doveva essere conosciuta, o meglio riconosciuta, da parte degli spettatori, degli ascoltatori e delle ascoltatrici. E quindi abbiamo cercato di lavorare proprio come una continuità di questi materiali. Per quanto riguarda un percorso, quindi aggiungiamo ulteriormente dei contenuti, come vengono diversificati e come vengono proposti? Sicuramente si aggiungono dei contenuti, perché le due linee, le due traiettorie che abbiamo privilegiato nell'esposizione di quest'anno riguardano, da un lato, la ricerca sui limiti del linguaggio, ossia l'azione, il rapporto con il linguaggio infantile, che è per Demetrio Stratos il punto di partenza di una ricerca intorno al pre-linguistico, cioè a tutte quelle forme che non sono ancora divenute linguaggio comunicativo e che però permettono di esplorare sonoramente la materia della voce. E quindi abbiamo in esposizione dei materiali sonori che documentano questo, e abbiamo dei documenti scritti e delle fotografie, anche di cose piuttosto inedite, perché ci sono i materiali del lavoro di Demetrio Stratos all'interno delle scuole, proprio per testimoniare questa connessione con il linguaggio in via di formazione. Dall'altra parte, la seconda linea che abbiamo privilegiato è la documentazione, anche qui visiva, sonora, documentale, di tutta la ricerca che Demetrio Stratos ha sviluppato intorno al bacino del Mediterraneo, o meglio alle tradizioni musicali e sonore del bacino del Mediterraneo, estendendosi fino alla ricerca legata al canto difonico, che è della tradizione mongola, tibetana, eccetera, e ovviamente a partire dalla sua radice greca. Tutte queste contaminazioni sono presenti anche rispetto agli ascolti che noi facciamo in quella che è la cattiva che abbiamo creato e determinato per poter ascoltare in modo tridimensionale il lavoro di Demetrio Stratos. La possibilità anche di visionare un documentario molto intenso è una possibilità che dà valore aggiunto importante. Sì, in realtà in mostra c'è un film che si intitola La voce Stratos, che è stato composto da Luciano D'Onofrio e Monica Affatato, ed è un film in cui si ripercorre tutta la storia di Demetrio Stratos e che, grazie alla collaborazione degli autori, abbiamo deciso di tenere all'interno della mostra, affiancandolo anche ad un documentario in cui Demetrio Stratos esprime il suo lavoro tecnico intorno alla voce. E lì c'è una dimensione molto importante da un punto di vista politico, se osiamo dire questo termine, perché la ricerca vocale di Demetrio Stratos è una ricerca che tutti possono sviluppare, che tutti possono fare. In sostanza si tratta di esplorare il potenziale vocale di ogni individuo, di ogni soggetto. E questo credo che in quegli anni, nella metà degli anni 70, fosse uno dei gesti più rivoluzionari. Perché resta così importante ai giorni nostri e poi in tutti i tempi tutto ciò? Resta importante perché, potremmo dire, è stata una ricerca estremamente contemporanea, ma profondamente ancorata a delle radici arcaiche, e questa è la sua forza, è sempre stata la sua forza, il tenere in connessione epoche, mondi completamente o apparentemente lontani tra loro, all'interno di una dimensione che è tra il materiale e lo spirituale, perché se pensa alla dimensione della voce è come se questa voce fosse qualcosa che attraversa i singoli corpi, ma non appartiene mai ad ognuno di questi, e quindi, diciamo, tocca in profondità le radici dell'essere umano. E per quanto riguarda una singolarità di una lettera di risposta a un noto critico, in cui a tutte le critiche Demetrio Stratos dà risposta precisa, insomma, è una malacopia questa lettera, perché è un po' particolare questo oggetto in mostra. Sì, è una risposta a Bertoncelli rispetto ad una critica che poi non è una, diciamo, una critica negativa, però Demetrio Stratos risponde, come diciamo la sua veemenza, mettendo in evidenza qual è il gesto fondamentale, cioè la ricerca vocale come elemento cardine anche per la musica pop, per la costruzione delle canzoni. E questa è una particolarità anche rispetto a quello che lei diceva prima, cioè la possibilità di stare in una relazione anche di ricerca profonda sulla voce e sul suono dentro la dimensione della canzone, dentro la dimensione che normalmente classifichiamo come pop. Io la ringrazio tantissimo, le auguro buona giornata, ne approfitto per gli auguri di buone feste, e l'appuntamento è a Palazzo Malagola a Ravenna. Ci sarà un piccolo stacco, le date saranno fino al 22 dicembre, poi c'è un piccolo stacco e riprenderà. Ci può dire con più precisione questi dati? Sì, dunque fino al 22 avremo la prima parte, insomma il primo momento, per poi staccare fino al 7 di gennaio, riprenderemo il 7 gennaio fino al 31 di gennaio il percorso espositivo.